Italia in controluce. Buon pomeriggio, questa è Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 che parla di cronaca italiana ma anche di giudiziaria e nera, di curiosità, di costume, spettacolo e cultura. Vi parla Daniele Biacchessi. La prima traccia è girata a Lampedusa, un luogo incantevole, meta però di flussi migratori senza precedenti. Un esodo biblico, come ha detto ieri il ministro dell'interno Roberto Maroni, che parla di 80.000 migranti in arrivo. Il reportage di Cristina Carpinelli. Da una parte c'è un'apertura delle autorità tunisine del governo di transizione a controllare le coste, dall'altra il mare che sembra increspato e poi finalmente l'Europa che si interessa al caso inviando la responsabile della diplomazia europea Catherine Ashton a Tunisi per offrire, si legge, il sostegno dell'Unione al processo di transizione del potere e affrontare le misure per frenare l'improvviso flusso di clandestini tunisini verso l'Europa. Lunedì 14 febbraio inizia a muoversi così la diplomazia, dopo che i ragazzi e i ragazzini tunisini, quelli che hanno fatto la rivoluzione dei gelsomini, sono già in viaggio per un altro sogno. Dicono che tutti quelli arrivati a Lampedusa abbiano chiesto un po' d'acqua da bere, qualcosa da mangiare, una sigaretta e le indicazioni per andare via dall'isola. Ci racconta così Filippo Mannino, anche lui giovane, 27enne, lampedusano, presidente di un centro sociale dell'isola che domenica ha ospitato 500 immigrati. Un modo per scappare appunto dalla propria terra e cercare libertà, un futuro migliore altrove. Loro chiedono quello che chiedono da sempre, dal primo sbarco che c'è stato a Lampedusa dall'89, dove la stazione ferroviaria, chiedono di andare perché comunque non vogliono rimanere a Lampedusa perché sanno che è un'isola, quindi spesso molti cercano di raggiungere anche parenti ad esempio in Germania o in Francia o anche in Italia, per cui la prima cosa che ti chiedono è possibilmente o una sigaretta o qualcosa da bere e poi dov'è la stazione ferroviaria. Ecco, nel contempo stanno cercando di raggiungere un altro obiettivo nella loro vita, realizzarsi altrove, perché magari capiscono che ancora è troppo presto per raggiungere i propri sogni nella loro terra. Mannino è l'immagine precisa di quello che sta accadendo. Dice, una volta finita l'intervista, che lui i ragazzi tunisini li capisce e che se potesse scapperebbe anche lui. E tutto qui. I giovani scappano, corrono, sognano a qualsiasi latitudine e con qualsiasi mezzo. Ora però resta da vedere come si gestirà l'emergenza. Fino a domenica si andava a naso, un po' qua, un po' là. Gli immigrati hanno dormito sulle banchine del porto, nella parrocchia, nel centro sociale, come ci racconta il parroco. Ma sono preoccupato del fatto che non mi pare che ci siano indicazioni chiare. Poi sono stati portati in un campo da calcio, tutto perché non si voleva aprire il centro di prima accoglienza. Poi alla fine si è convenuto che non c'era alternativa. Ci racconta così il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis. Noi abbiamo avuto l'esperienza del centro per diversi anni ed eravamo convinti e siamo ancora convinti che l'apertura di un centro organizzato, dove certamente garantiva la massima dignità agli immigrati, era come un invito nei confronti delle popolazioni che tendono a fuggire e venire verso Lampedusa di dire apriamo le porte, venite, tanto siamo ben pronti e siamo ben organizzati per poterlo fare. Però c'è un dato importante, glielo dico nella nottata di ieri sera, gli immigrati abbiamo trovato enorme difficoltà nel portarli all'interno del centro perché ormai erano abituati in queste strutture di fortuna a stare una sola giornata e all'indomani con i pontaerei partivano immediatamente per andare in Italia e molti di questi, addirittura l'80% perché tutti parlano francese, la destinazione che volevano che, per il loro futuro è la Francia. E allora il centro, per l'esperienza del passato, garantiva l'ospitalità per 3-4 giorni, poi siamo arrivati a più giorni, mentre in queste strutture di fortuna in una sola giornata si risolveva il problema. Il sindaco era uno di quelli che non voleva la riapertura del centro, ho pregato il ministro ministro affinché lo aprisse. Oggi il centro è aperto perché eravamo al collasso, vedremo quello che accadrà successivamente. Ma quindi non capisco perché di fatto lei ha voluto che si riaprisse il centro perché eravate in una situazione di emergenza, ma avevamo gli immigrati, il dottoressa in mezzo alla strada. No, quello sì, ma non capisco. No, ascolti, la mia perplessità è, cioè, lei vorrebbe poi a questo punto ritornare alla situazione di prima, quindi quando superate questa emergenza chiudere e non se ne parla più? No, ma non è che facciamo apri e chiudi, se è aperto teniamo il centro, è una struttura che garantisce dignità, perché stiamo parlando di persone, non stiamo parlando di altro, perciò garantire certamente un materasso, garantire tutti i servizi, un posto caldo in modo particolare. Poi se il fenomeno finisce, allora possiamo rivedere la posizione. Per far fronte alla nuova ondata di sbarchi, Frattini ha già annunciato nuovi pattugliamenti delle coste italiane. Si trovava a Tunisi domenica sera per trovare un accordo in questo senso. Finora, ha detto il ministro, il meccanismo ha funzionato e noi vogliamo ripristinare quel meccanismo che fino a un mese fa, ha detto Frattini, aveva riportato a zero l'immigrazione clandestina. Italia in controluce. Cresce la generazione delle mamme sole. I numeri arrivano dalla clinica Mangiagalli di Milano e raccontano una rivoluzione sotto molti aspetti. Maria Luisa Pezzali. Non può essere vero, ma l'avresti detto allora, per tenermi stretto in una mano, per tenermi legato. L'unica arma sarebbe stato un figlio, e figuriamoci, quest'arma tu, Filomena Marturano, l'avresti usata immediatamente. Ma l'avresti fatta accidere, non una, ma 100 volte me l'avresti fatta accidere. Solo per me è vivo tuo figlio. Un figlio contro tutto e contro tutti. Per Filomena Marturano, nella Napoli anni 50, una sfida disperata. Oggi, per molte donne, sole, senza un marito o il compagno di una vita, senza un uomo deciso a diventare padre al fianco, una scelta consapevole. È la fotografia della rivoluzione scattata dalla clinica Mangiagalli di Milano. 6.500 parti all'anno, conosciuta nel nord Italia come la fabbrica dei bambini. Nel 2010 una neomamma su 5 non ha indicato il padre al momento del parto. 1.298 donne, per il 70% italiane, età media 35 anni, molte con una laurea in tasca e una carriera avviata. Negli ultimi 2 anni la percentuale è quasi triplicata. Attenzione, avvertono però dalla Mangiagalli, la lettura del dato non è univoca. Luigi Fedele, direttore del Dipartimento per la Salute della Donna, del Bambino e del Neonato. È un dato che ha sorpreso un po' tutti, ma va un po' pulito dai numeri grezzi, nel senso che le donne stanno in ospedale solo 3 giorni, quindi hanno almeno 10-12 giorni per andare all'anagrafe e completare la dichiarazione del padre, quindi insomma quei numeri sono sovrastimati rispetto al numero reale di donne che rimangono sole e non dichiarano la paternità. Dai certificati dell'anagrafe di Milano risulta che i bambini senza padre sono il 3%. Per quella casella non barrata, insomma, intervengono molte variabili e non tutte conducono alla voce mamme sole. Ci può stare un ripensamento nei 10 giorni successivi, oppure un semplice passaggio burocratico, o ancora la volontà di dare il doppio cognome al nascituro. In Italia, infatti, per dare al figlio anche il cognome della madre è necessario che il padre lo riconosca solo in un secondo momento. Un segno dei tempi anche questo, in una città come Milano abituata ad anticipare i cambiamenti sociali. I fenomeni alla base sono molti, ci conferma la sociologa della famiglia Chiara Saraceno. In molti casi può essere semplicemente un passaggio burocratico, nel senso che può trattarsi di donne che convivono con il padre del nato e che non hanno fatto la tappa precedente che è necessaria in questi casi di andare a registrarsi come futuri genitori prima della nascita. Se questo non viene fatto in anticipo, la madre appare come l'unica che lo può riconoscere in prima battuta. Può essere che poi ci siano anche donne che non hanno un rapporto di coppia stabile o che non hanno un compagno disponibile a diventare padre. In entrambi i casi è il segnale che non sono donne sprovvedute, diciamo così, che non è il segnale di un aumento di donne che si fanno mettere incinte e poi vengono abbandonate. Sicuramente sono donne che hanno un loro, come dire, progetto di vita con o senza un compagno. Quanto conta secondo lei il fatto che questi dati arrivino da una grande città come Milano rispetto al resto d'Italia? Conta il fatto che Milano ha visto negli ultimi anni aumentare l'occupazione femminile, innanzitutto, quindi anche l'autonomia economica femminile, le convivenze senza matrimonio, le convivenze con figli senza matrimonio, e quindi concentra tutti i mutamenti nei comportamenti delle donne, nelle relazioni tra i sessi, che si colgono complessivamente nel centro-nord. Ma nella Lombardia, capitale della Womenomics italiana, qui il tasso di occupazione femminile è il più alto d'Europa, c'è anche chi azzarda una provocazione. Molte donne si dichiarano madri sole perché così è più facile, per esempio, far ammettere il figlio all'asilo nido. La seconda edizione di Italia contro luce termina qui. Ricordo radio24.it, il nostro sito, trovate anche il blog di questo programma. Poi potete andare su Facebook, Radio 24 Italia contro luce, su Twitter, in contro luce, oppure inviarci mail a controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30, parleremo con Simone Perotti di Downshifting.